Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Olimpiadi della robotica e Rome Cup, due competizioni che quest'anno si sono svolte insieme nella capitale dal 16 al 18 marzo. Due competizioni che coinvolgono studenti delle scuole di tutti i gradi, o quasi insomma, e che quest'anno hanno visto una partecipazione straordinaria. Questa è una buona notizia perché robotica e intelligenze artificiali rappresentano con tutta probabilità, come abbiamo sostenuto tante volte anche qui in trasmissione, il più potente fattore di cambiamento sociale col quale avremo a che fare nei prossimi anni. Questa è anche la convinzione, insomma, alla base delle attività della Fondazione Mondo Digitale, che ha collaborato a organizzare le Olimpiadi della Robotica e ha invece ideato e organizzato la Rome Cup, di cui parliamo con Alfonso Molina, che è appunto direttore scientifico della Fondazione Mondo Digitale. Buonasera Molina. Buonasera. Allora, due concorsi. Il primo, le Olimpiadi della Robotica, è quello in cui si affrontano delle squadre di robot calciatori, giusto? L'Olimpiadi organizzata dal Ministero. Esatto. E questa infatti è la competizione un pochettino più forse conosciuta oggi al grande pubblico. Ecco, invece, chi partecipa alla Rome Cup, che tipo di robot deve realizzare? Direi di partire da qui. I robot sono, in realtà sono cinque categorie, okay. No? C'è la categoria danza, la categoria salvataggio, sì. C'è la categoria esplorazione, c'è la categoria soccer, ovvero calcio, okay. E c'è un'altra categoria di salvataggio che si chiama eco-space. E anche queste sono veramente categorie delle Olimpiadi. Quindi insomma c'è una discreta sovrapposizione fra queste due competizioni, tant'è vero che le avete insomma organizzate insieme. Ci sono stati 156 team provenienti da 17 regioni italiane quest'anno che hanno partecipato a questi concorsi. È un successo, ma che cosa avete visto? Che cosa... Ce n'era tanto da vedere, perché ci sono state 58 scuole, 5.000 partecipanti, hanno passato da tutte parti 200 prototipi, no? Pertanto la varietà, la creatività che si vedeva era straordinaria. A me mi ha colpito un robot dell'Istituto dell'ITIS Alessandro Volta di Pescara, che è un robot in grado di ispezionare e individuare ordini collocati al di sotto dei veicoli senza rischi per l'uomo. Al di sotto delle automobili, no? Al di sotto delle automobili. Questo è un robot che ha una doppia struttura, con una piattaforma più pesante che è per tutto terreno. E dopo, quando si avvicina alla macchina, sì, Invia un robotino più piccolo con una camera che può esplorare sotto un automobile. E certo, anche per salvaguardare probabilmente il grosso del robot, che evidentemente rimane anche lui a distanza di sicurezza, no? Perché poi l'obiettivo è quello, non avvicinarsi. Esattamente, innanzitutto per salvaguardare le persone, perché prima si avvicinava una persona con una pesatura di 60 kg, molto sconfortevole, anche tutto pericoloso. Con un robot di questo tipo ovviamente tutto quello sarebbe risparmiato. Sarebbe più facile. Ecco, e quindi insomma io so che insomma lì c'erano un robot da quelli fatti con i Lego e qualche magari schedina, fino a delle robe appunto elaborate come forse questa che abbiamo anche descritto, sì. Che è addirittura un esperimento che stanno conducendo in collaborazione lì a Pescara con le forze dell'ordine, ho capito bene? Esattamente, perché c'è di tutto, guarda, ci stanno facendo alleanze. E l'altra cosa che colpisce è che adesso non solo i ragazzi stanno costruendo il robot molto originale, le stanno anche stampando con le stampanti. Certo, 3D, certo. Stampano i pezzetti, costruiscono tutto Ecco, forse questo ci porta naturalmente verso anche la domanda che le volevo fare un po' per concludere, che è qual è l'obiettivo di eventi come questo e anche di altre competizioni simili che ci sono in giro per il mondo? L'obiettivo è fondamentalmente portare una coscienza, no? Al bisogno di una nuova educazione per questo secolo. La robotica, se questo è il secolo della robotica, dove tutto sarà diciamo toccato dal mondo della robotica, dell'intelligenza artificiale, lavori e anche tutti gli aspetti della vita. Qui stiamo parlando per esempio di un studio dell'Università di Oxford che ci dice che il 47% per cento dei lavori possono essere automatizzati negli Stati Uniti nelle prossime 20 anni. E cose come queste. Pertanto c'è bisogno di una nuova educazione che faccia coscienza, ma anche utilizzi la robotica per creare una nuova didattica, una didattica costruttivista che sia capace di insegnare le conoscenze standardizzate, ma anche le competenze per la vita, ma anche i valori fondamentali per una cittadinanza responsabile. Tutto questo lo può fare, diciamo, la robotica, e c'è bisogno, no, di creare pertanto tutta una serie di alleanze, di collaborazioni per creare un ecosistema che permetta alla società italiana di usufruire di questa opportunità, perché l'Italia ha un'eccellenza storica nella robotica, sì, e non può lasciar perdere questa opportunità. Beh, insomma, e poi bisogna farsi trovare preparati possibilmente, perché queste cose comunque arriveranno e sarà bene essere sul pezzo quando arriveranno. Va bene, grazie Alfonso Molina. Grazie a lei, grazie. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani.